una constatazione di fondo. In fondo a questa sala vi sono dei giovani che, se ho ben capito, studiano in un istituto di scienze religiose. Sì. E questo vuol dire che nella maggior parte dei casi andranno ad insegnare nelle scuole, probabilmente nelle scuole secondarie, andranno ad insegnare religione, o sbaglio? Sì. È una delle eventualità. Tra i possibili sbocchi. È uno tra i possibili sbocchi. Beh, adesso c'è anche allora, il direttore dell'ufficio scuola. Allora, questo vuol dire. Allora, ecco, questo vuol dire che un testo come il seguente probabilmente è come minimo un testo indispensabile. Perché di fatto queste persone saranno in prima linea tra qualche anno a dover parlare di religione all'interno di un'istituzione laica, a dei gruppi di studenti che, per scelta di famiglia, per abitudine, per tradizione, per tutta una serie di motivi, si ritrovano lì ad ascoltarli e devono in qualche maniera avere quel minimo di conoscenza del mondo che gli sta davanti, che non può essere accidenti, non può essere solamente quella che viene dalla stampa, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione di massa o dai fervorini che di tanto in tanto ci facciamo. Ma è necessario per la loro preparazione una conoscenza, oserei quasi dire sistematica, mi permetto di dire almeno metodica, della realtà sociale contemporanea e soprattutto di quell'aspetto della realtà sociale contemporanea che è la vita religiosa, così come viene vista, così come emerge, così come viene letta da delle persone che sono abituate a leggere i fenomeni culturali in generale, che sono i sociologi, che non è la religione nella sua interiorità vissuta, quindi nel pieno, nella pregnanza delle coscienze di ciascun individuo, che, se mi permettete di dire, è un tabernacolo nel quale noi sociologi non abbiamo né diritto né possibilità di entrare. Ma sono invece le forme pratiche, sono i modi di realizzazione concreti di questa credenza e di questo agire, sono i modi di intrecciarla con le scelte di vita che poi si compiono. Ecco, questo è su questa lettura di superficie, ma che superficie, che i sociologi della religione lavorano. Diciamo allora che questo libro, Immagini della religiosità in Italia, non fornisce solamente, e questo è bene dirlo, non fornisce solamente le immagini della religiosità in Italia, ma fornisce almeno altri due tipi di contributi. La prima è una fotografia dei sociologi della religione, cioè di quelle che sono i diversi approcci, le diverse modalità, le diverse sottolineature che non sono tout court diverse scuole, quanto diversi modi di focalizzare il problema, diverse attenzioni, diverse emergenze che vengono indagate. In terzo luogo, se mi permettete, vi basta leggere le pagine di introduzione per intuirlo, in realtà noi non faremmo mai sociologia delle religioni se non fossimo convinti che attraverso la dimensione religiosa passa una dimensione culturale decisiva all'interno della società contemporanea. Non facciamo studio dei margini. Non ci permetteremo mai di investire il nostro tempo nello studiare delle realtà che poi sono effimere e marginale. Quindi questo testo è anche uno studio della società italiana tout court, colta all'interno della dimensione religiosa. Detto questo, certo, si può, bisogna fare i conti con la dura realtà della sociologia, che è quella di individuare di volta in volta delle linee di tendenza, più che darci la fotografia. Quanto vorremmo avere noi stessi come sociologi una fotografia che ci riproduca con esattezza tutte le sfumature, e invece non abbiamo un'immagine in bianco e nero. E siamo tutti quanti come donati nel tentativo di fare la mappa, nel tentativo di costruire la mappa. E è un discorso in continuo farsi proprio perché la società nostra è una società in continuo farsi. Detto questo, come semplice premessa, mi sembrava rilevante, perlomeno, sottolineare almeno due punti forti. Ne prendo due a caso, per carità, che gli autori presenti non se ne abbiano a male se non faccio la rassegna di tutti. Sono tutti dei contributi validi. Ma mi permetterei di cogliere due passaggi che non sono casuali, Il primo, che ci dice che la religione non è mai considerata nemmeno tra i praticanti religiosi al primo posto tra le voci significative, ma è ritenuta piuttosto il collante necessario a dare stabilità ed equilibrio alla sintesi armonica tra le singole voci. La famiglia, la propria realizzazione, il lavoro, il denaro, il sesso rappresentano le cose massimamente rilevanti e la religione funziona come collante. Questa è opera di Silvano Burgalassi. Il secondo punto forte che vorrei citare, che è un vero e proprio scossone, è quando ci si spiega come, grosso modo, dal Settecento ad oggi, si è dinanzi ad una progressiva ed inarrestabile distruzione della normatività, che passa attraverso la distruzione del legame non solamente naturale, quello tra uomo e donna, naturalmente, o tra padre e figlio, ma anche e soprattutto sociale. Il percorso è quello dello svuotamento e della messa in fluttuazione del legame sociale generalizzato. Questo per dirvi come i sociologi cercano di arrivare al centro del problema. Siamo all'interno di una società nella quale è in atto la distruzione del legame sociale, nella quale c'è una reale, scusatemi se mi permetto di enfatizzare, impraticabilità di qualsiasi percorso normativo. Tanto per ritornare alle note indagini sui valori, fatte tra gli altri, l'ultima, la più recente, fatta da Renzo Gubert, diretta da Renzo Gubert, qui, alla quale lo stesso professor Caprara ha collaborato, quando si parla ancora una volta di questa impossibilità di distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Non esistono valori precisi assoluti per distinguere il bene dal male. E il professor Donati, nel suo articolo, sottolinea proprio come tutto il discorso sull'etica e sull'applicazione della bioetica vada verso un vicolo cieco proprio perché di fatto agisce all'interno di una società nella quale la normatività non è più applicabile. E la normatività non è più applicabile, spiega, perché l'individuo è colto nella sua autonomia assoluta, non nella sua dimensione relazionale. È il paziente che deve decidere. Grande bugia. Sapete tutti l'episodio di cronaca di questa povera paziente americana che dopo diversi mesi di coma è ritornata alla luce subito, e subito i medici, il personale sono precipitati a dirle: senta, se per caso ricade in coma che cosa dobbiamo fare? Ti diamo la libertà. E questa ha risposto umanamente: non lo so. E ce ne vuole accidenti di marcia indietro per riuscire a fare una confusione di questo tipo, riuscire a confondere l'autonomia dell'individuo con la sua assoluta mancanza di relazioni sociali. L'individuo che raggiunge l'autonomia allo stato puro e che in base a quella è libero di legiferare su se stesso, sempre, ovunque e dovunque, al di fuori di qualsiasi relazione, mentre invece, in questo senso il paradigma proposto da Donati, secondo me, sarà destinato a svilupparsi nei prossimi anni, mentre invece probabilmente il soggetto assoluto, irrelato, cioè privo di relazioni, di fatto è una finzione. È una grossolana finzione. E da questo punto di vista, questo testo affronta anche argomenti di questo genere. Naturalmente avete già capito che non era di questo che volevo parlare, mi ero portato una relazione, ma non mi era sembrato il caso di venirvi a leggere le mie relazioni sulla modernità, la postmodernità e la teologia dinanzi al postmoderno. Magari le scriverò e le dirò in qualche altra occasione. Quello che mi sembra necessario sottolineare, almeno in questo momento, e poi vi sono persone più qualificate di me qua davanti per far bene queste cose, ma quello che mi sembra necessario in questo momento è far capire come la situazione nella quale ci troviamo all'interno della dimensione religiosa, e uno studio di questo tipo, e vi assicuro che non se ne fanno tanti, se ne fanno molti di meno di quanto non si creda, uno studio di questo tipo che affronti nel contempo non solamente l'immagine della religiosità, ma pure l'immagine dell'uomo che passano attraverso la dimensione religiosa, si ponga effettivamente come un testo fondamentale e quindi come un materiale da lavoro strettamente inaggirabile. Ecco, preferisco fermarmi qui per dare spazio magari al dibattito. Mi pare meglio. Grazie. Oh, grazie. Oh. A te.